Vabbè, al di là del discorso del vedersi proprio, questo è marginale. Noi questi video li montiamo soltanto per spiegare al di fuori di quella cosa, perché rivedersi per loro forse non è la parte più importante. La cosa più importante è qua, l'ultimo, per esempio, l'ultimo disegno che abbiamo fatto dopo che abbiamo pubblicato il libro con tutti i disegni, quindi un disegno che non sta nel libro, l'abbiamo fatto su una porta di questo gruppo di pescatori, di ragazzi più o meno nostri coetanei che vanno a pescare in barca. Si vedono a un certo punto che passano quando noi stavamo disegnando sul pontile. E noi gli abbiamo disegnato la porta e loro ci hanno regalato una busta di pesce. Questa è la cosa fondamentale, è il dono. Cioè che io ti porto una cosa e tu me ne dai un'altra. Ma questo, a parte il dono proprio materiale del darci la busta di pesce, ma anche semplicemente il racconto della loro vita e io che irrompo nella loro vita con la mia ossessione per la pittura. Comunque c'è uno scambio. Questo non so dove può portare, però so che io non posso vivere senza farlo. Quindi stare là con tutti i ragazzini che ti seguono così è semplicemente un modo per mostrare una via diversa di vivere, che non so, senza dire che è migliore o peggiore, semplicemente io vivo così, tu puoi vedere che c'è questo, c'è quello che va a lavorare sulla barca, c'è quello che vende la droga, ci sono, più ne vedi e più hai possibilità di scegliere. Quindi, diciamo, la nostra idea di base più o meno è questa, di portare una cosa che magari non hanno visto. Ad esempio per me è come tornare indietro, no, come entrare in una macchina del tempo. Mi è difficile comprendere, accettare che è contemporaneo. È veramente uno spaccato di un qualcosa di cui non ho idea. Cioè anche capire, non so, questa cosa di scambio che ti dici è importante, no? Questa è una cosa preistorica. Non so, forse quello che mi. Non so se è importante o non è importante. Se ci fosse una sorta di lente, no? Di entrata e di uscita, è questo che forse mi incuriosisce di più, questa cosa quando loro si vedono, perché per me. No, ma ci sono state grandi ovazioni quando si vedevano, proprio perché si riconoscevano, è come non so se avete mai Sì, ma loro con visto. i tuoi disegni e tutto il resto, no? Sì, in una cornice ovviamente, non si rivedono nel filmino della comunione, si vedono in una cornice che magari non hanno capito precisamente fino a quando noi l'abbiamo fatto. Ci vedevano, eravamo diventati ragazzi di Napoli, chiamati Napoli, non avevo nome, ero Napoli. Che vengono e fanno dei disegni per strada. Quindi poi vederlo in una cornice serve anche a capire. Tutto un lavoro che magari hai guardato pure superficialmente e ti ha sfiorato per un anno, no? Ci siamo frequentati, perché poi l'isola è veramente piccola, si fa a piedi in 5 minuti da un lato all'altro. Quindi le persone quelle sono, e quindi sì, è importante che l'hanno rivisto, è importante che capiscano che c'è una piccola progettualità dietro. Che ovviamente è pure molto improvvisata, molto dipende dal caso, molto dipende da quante volte io posso andare in un mese, da quanto tempo posso restare, poi ci stanno mille varianti. Bene.